Benvenuti, questo è Ragù di Scienza, il podcast che a volte sparisce per un mese, ma poi torna. Io sono Alessandro, con me, come al solito, la Jocelyn Burnell de no altri, Elisa Nichelli. Ciao a tutti. E l'uomo con più progetti segreti di Elon Musk, Adrian Link to Universe Partade. Ciao a tutti, sempre un piacere essere qui, aspettatevi un mio lancio a fiamme. Se è il vostro primo episodio, ottimo, benvenuti, è anche il decimo. Il podcast però funziona così, ogni settimana uno di noi ad insaputa degli altri porta uno spunto, una notizia, un episodio dalla storia della scienza. Da lì partiamo con associazioni di idee, voli pindarici, collegamenti più o meno strampalati. Cerchiamo di riempire il pentolone del podcast con roba gustosa che possa stimolare il vostro appetito per le scienze. E alla fine un altro malcapitato deve trovare un titolo riassuntivo. Voi già lo potete vedere, probabilmente non ha senso, lo avrà verso la fine. Noi brancoliamo nel buio. Adesso, senza ulteriori indugi, siccome tocca ad Adrian aprire questo episodio, gli lascio la parola. Cosa ci racconti? Allora, oggi è una puntata in un momento un po' speciale perché stiamo festeggiando 60 anni dal lancio della missione Explorer 1 in questi giorni. È stato ieri, ma più o meno ci siamo. E in questo periodo, quindi, risale, diciamo, la prima volta della NASA. E quindi volevamo commemorare, o perlomeno io volevo raccontarvi un po' di questa missione, di quello che è stato il primo periodo di questa storia che abbiamo poi chiamato la storia della corsa allo spazio, per raccontarvi qualcosa su come viene scritta un po' la storia degli eventi scientifici molto, in maniera molto diversa dopo che le cose sono successe dopo tanto tempo. Per cui un po' come in altri ambiti della scienza, come vedremo sicuramente nel caso di astronomia e biologia, preparatevi, di come le cose nel momento in cui vengono fatte sembrano in un certo modo, poi dopo alla lontana, riguardando le cose nel contesto più grande, che ovviamente sul piccolo manca, possono avere un po' una connotazione diversa, possono essere un po' reinterpretate in modo diverso. Per esempio, il mio aneddoto preferito è che questa era la fine di una corsa, cioè per molti aspetti è la fine di quella che fu la corsa a lanciare il primo satellite intorno alla Terra, fatta di un sacco di storie di spionaggio militare, fatta di un sacco di missili che esplosero di continuo, e per molto tempo in questo frangente entrambi i paesi sapevano più o meno che l'altro stava sperimentando su questo. Nessuno sapeva a che punto era l'altro, perché non c'erano tecniche come oggi per monitorare esattamente cosa sta facendo l'altro con satelliti, eccetera. Per cui per molto tempo dipendeva da palloni aerostatici che venivano mandati e facevano le foto di nascosto, oppure semplicemente aerei o spie, classiche spie che andavano lì e dovevano, tipo alle fiere o altro, quando venivano presentate le grandi innovazioni dell'altro paese, andare lì e monitorare e scrivere tutte le novità viste. Explorer 1 è la prima missione che la NASA riuscì a lanciare, ma prima ci fu il progetto Vanguard che andò a pezzettini, provarono a lanciarlo per ben due volte ed entrambe le volte fallì miseramente. E fu abbastanza drammatico perché nel frattempo non solo la NASA non era mai riuscita a lanciare qualcosa in orbita, ma l'Unione Sovietica, dopo il primo lancio il 4 di ottobre del 1957, subito un mese dopo riuscì a lanciare un animale in orbita, Laika. Questa cosa era gigantesca e è un po' come mentre te stai cercando magari di, che ne so, fare il tuo primo piccolo panino fatto meglio, l'altro tuo concorrente ha appena vinto la stella Michelin con il suo ristorante. Cioè è proprio un altro livello riuscire a mandare anche un animale intorno. Questa cosa continuò per un bel po' di tempo, perché quando l'Unione Sovietica lanciò Yuri Gagarin in orbita terrestre, gli Stati Uniti riuscirono a lanciare un umano nello spazio, Alan Shepard, circa tre settimane dopo, ma soltanto in un volo parabolico suborbitale, cioè andò su e tornò giù senza finire letteralmente in orbita. Per cui questa segnò una fine. Quello che successe dopo, cioè l'inizio della corsa allo spazio, quella classica, è in reazione alla fine di una corsa. Ora, perché con il tempo queste cose cambiano, perché lì per lì non era vissuto come corsa, nessuno, addirittura gli Stati Uniti quando lanciarono queste missioni, non lo fecero per nulla, quando lanciarono poi la sfida, non lo fecero per nulla menzionando l'Unione Sovietica. Cioè, fu la sfida, e questa per me è la cosa che spesso viene persa quando raccontiamo la corsa allo spazio, non era degli Stati Uniti versus l'Unione Sovietica nel termine di propaganda, ma nei termini di propaganda era gli Stati Uniti versus gli Stati Uniti. Perché quando Kennedy fece il discorso, disse dobbiamo dimostrare, dobbiamo fare qualcosa di incredibilmente eccezionale che va oltre ai, a quello che noi stessi diamo, per esempio, come nostri possibili limiti. Era una sfida per dimostrare a se stessi, in termini di propaganda ovviamente, poi sotto ovviamente era contro l'Unione Sovietica, di far vedere che potevano fare qualcosa. Se fallivano, non era tanto questione dell'Unione Sovietica, perché tanto comunque anche loro avrebbero fallito, era più cercare di fare qualcosa di straordinario e poi dopo non riuscirci come ti eri tanto vantato di essere, di essere in grado di andare oltre i limiti. Ora, questo è importante perché quando le missioni venivano decise, quando tutti i grandi esperimenti venivano mandati nello spazio, eccetera, delle prime sonde, come fu la Explorer 1, c'era uno strato scientifico, per cui le persone lo vivevano da una parte con interesse per quello che stava succedendo, e dall'altra parte c'era completamente il buio per quanto riguarda il futuro. Ora a ritroso è difficile immaginarsi come si dovevano sentire le persone quando fu lanciate queste missioni, ma dovete pensare che loro non avevano idea di come sarebbe andato, non sapevano niente, né degli shuttle, né missioni umane sulla Luna, missione Apollo, era niente. L'unica cosa che sapevano è che l'Unione Sovietica aveva mandato delle cose intorno alla Terra, che facevano bip bip bip e tutti erano super gasati di questa cosa, e i giornali fecero uscire testate con scritto ora sta facendo solo bip bip, ma se domani porta una testata nucleare sopra la tua testa? E chissà cosa c'è dentro quella palla, voi vi fidate dei comunisti? Questo era più o meno il tono. Lo scopo principale delle missioni non era vinciamo chissà che corsa di sua, quella era una parte, perché era la paura di non avere idea come sarebbe andata. Non avere idea cosa stavano facendo i sovietici, da quanto riguardavano, quando per esempio i sovietici mandano la prima missione verso la Luna con successo, Luna 1, gli Stati Uniti, i scienziati dicono che è una bufala. Addirittura quando mandano Luna 2, talmente fu lo shock degli scienziati russi, quando avevano saputo che gli americani non avevano creduto che c'erano riusciti, che addirittura si fecero tutta una serie di prove e copie da mandare pubblicamente, perché dovevano assolutamente cercare di convincere gli americani, guardate che davvero, davvero siamo arrivati sulla Luna. Con gli americani dicevano, sì, ma chi ce lo garantisce? Per cui era la maggior parte non era pensato in come lo viviamo ora, uno slancio per creare una sfida per andare sulla Luna. Era proprio paranoia giorno per giorno di, oh mio Dio, cosa stanno facendo là dentro, nessuna idea. Mentre dalla parte scientifica, e l'impatto maggiore era che nessuno aveva idea di cosa avremmo scoperto. E tipo, uno dei momenti più assurdi fu quando abbiamo scoperto che la Luna non aveva un campo magnetico con queste prime missioni, perché sembrava tutto perfetto, no? La teoria era, il campo magnetico della Terra c'è perché c'ha un nucleo grosso interno liquido come tutti gli altri corpi, quindi ognuno avrà il suo piccolo campo magnetico, la Luna ne avrà uno minore, poi passiamo da lì e non c'è per nulla. E quindi tutti i modelli riguardo alla formazione del campo magnetico della Luna, riguardo alla formazione del campo magnetico della Terra, riguardo agli altri pianeti, tutto viene sconvolto, così come quando scopriamo che Marte non ce l'ha, che Venere ruota all'incontrario. E quindi la scienza era preoccupata di missione a missione di quello che stava scoprendo, tutto questo stava succedendo in paranoia da un momento all'altro, e noi nel 2018 guardiamo tutto indietro e diciamo, ah, che bella storia con un inizio alla fine, come se qualcuno l'avesse scritto stile Tolkien, con un finale in mente, e avesse deciso, sai cosa, ora mi metto lì e faccio tipo ci sarà un disastro qui, e poi un razzo che esplode in questo momento perché era hype, e poi ci sarà questo momento drammatico di Apollo 13 in cui nessuno, ma si salveranno, il pubblico sarà lì. No, non è un film, questa roba non la sapeva nessuno. Fine, ok, sono andato anche troppo per le lunghe. Ora la mia domanda a voi ovviamente è se per voi c'è qualcosa che nel momento era vissuto in maniera completamente diversa rispetto alla narrazione che ne facciamo ora. Allora, mi è piaciuto molto questo discorso che facevi tu che non vivevano la cosa come una corsa, perché quest'anno è anche il 65esimo anniversario della pubblicazione della struttura del DNA, a doppia elica, di Watson, Crick, Wilkins e Franklin. E la cosa interessante è che al momento, nel 53, quando è stata pubblicata, per cui tra l'altro qualche anno prima di Explorer 1, siamo anche contemporanei spazio-temporalmente, non gliene fregava niente a nessuno. Cioè l'annuncio della doppia elica al pubblico è uscito su un trafiletto sul New York Times mesi e mesi dopo che era stato già annunciato la prima volta in una conferenza, e poi il paper era stato pubblicato su Nature. Addirittura se andiamo a vedere le pubblicazioni scientifiche che menzionano la doppia elica, bisogna arrivare fino agli anni 60 quasi perché la cosa prenda il sopravvento e diventi una cosa irrilevante. Non lo citavano neanche la soluzione della doppia elica. Eppure non solo noi adesso lo viviamo come questo momento che ha cambiato la storia, che probabilmente è vero e giusto, ma Watson e Crick stessi, specialmente Watson, che ha scritto poi pochi anni dopo la sua autobiografia, La doppia elica, la vivevano come una corsa al cardiopalma per uscire prima di Pauling, che aveva appena pubblicato il modello a tripla elica, e se usciva lui prendeva un altro Nobel e noi che cazzo facciamo, e ruba i dati che però in realtà non li hai rubati. Facciamo una parentesi, visto che in sti giorni sono preso da questa storia della Franklin. C'è questa narrazione comune popolare per cui Watson ha visto la fotografia, la famosa fotografia 51, dove si vede la X sostanzialmente su una cristallografia a raggi X, da cui si può dedurre che il DNA è a doppia elica, e da lì nel giro di poche settimane hanno tirato fuori la struttura del DNA. È più o meno vero, almeno se stai a sentire la versione di Crick e di Watson, però c'è una piccola complicazione, nel senso che la Franklin quei dati li aveva mostrati in una conferenza pubblica al laboratorio Cavendish l'anno prima, anzi quasi due anni prima, e Watson era lì e probabilmente si stava scaccolando perché ha preso degli appunti con le cifre sbagliate, non gli tornava niente, e quindi poi si è ritrovato a dover rubare, prendere in prestito i dati dalla Franklin molto dopo. Non solo, un'altra cosa che non si prende e che mostra come Crick è molto più intelligente di Watson è che la Franklin fino quasi all'ultimo, fino all'inizio del 53, era convinta che il DNA non potesse essere in doppia elica. Il cristallo del DNA che faceva lei, secondo lei l'interpretazione giusta era che non fosse una doppia elica, ma fosse più una cosa a zigzag. E aveva già la fotografia 51 dalla fine del 52, 1952 la fotografia 51 perché sono serie numerate, ma non la fece neanche vedere a Wilkins, che è il cristallografo per cui lavorava. Anche lì è complicato, semplifichiamo dicendo per cui lavorava la Franklin. E ci sono delle lettere che sono uscite negli anni 2000, quando hanno recuperato la corrispondenza di Crick, in cui c'è letteralmente Wilkins che bestemmia, mentre si lamenta, che dice «Ma questa qua c'aveva la struttura a doppia elica del DNA lì pronta e ci diceva che non poteva esserlo, ma cosa, ma come?» Per cui la cosa è molto complicata. Sono andato su questa parentesi però per dire che mentre loro la vivevano come una corsa al cardiopalma in cui dovevano rubarsi i dati, sennò la gente moriva, al mondo esterno non fregava niente, non fregherà niente per quasi 10 anni. La chiave vera del paper che viene pubblicato su Nature della struttura del DNA è il suggerimento alla fine che, per come è fatta l'elica, questo suggerisce che ci possa essere lì l'informazione ereditaria, perché non era ancora benissimo chiaro, nonostante l'esperimento di Avery, che fosse il DNA a trasmettere le informazioni ereditarie. E sarà solo nel 57 che Crick proporrà il dogma centrale della biologia molecolare, che lui usa la parola dogma non sapendo cosa significa dogma, come sinonimo per congettura, ipotesi, slancio, volo pindarico, e adesso viene presa come se fosse un dogma, ma soprattutto la sequence hypothesis, cioè l'idea che in qualche modo nella sequenza delle basi sia codificata l'informazione genetica. Noi adesso usiamo il termine informazione genetica come se fosse una cosa banale e ovvia, ma è nel 57, quindi 4, quasi 5 anni dopo la scoperta della struttura, che viene per la prima volta utilizzato questo termine. Ed è da lì poi che parte la vera rivoluzione del DNA, anche perché Pauling, nonostante sia stato sconfitto, tra virgolette, nella corsa per la struttura del DNA, è in quel momento che comincia a dire: ah, ma aspetta, l'anemia falciforme è una malattia molecolare, viene perché non funziona una molecola, e come è fatta la molecola? Forse dipende dal DNA. E lì la cosa si fa interessante. Ma di questi che a momenti si accoltellavano nel laboratorio, al mondo esterno non fregava quasi niente. Bravo Ale, bravo, scusa, non riuscivo a riattivare il mio microfono. A me sono venute in mente due cose ascoltandovi. Una, per la tua introduzione iniziale, perché è la Jocelyn Bell Burnell che tu mi hai accreditato, di fatto ha fatto questo, cioè lei aveva una tesi di dottorato in cui cercava quasar e ha detto: ah, fammi cercare questi bei quasar. Poi è inciampata, quasi inciampata in un Nobel, perché ha scoperto le pulsar. Vabbè, questo avevamo già parlato, però mi ha fatto ridere l'assonanza. Una cosa invece molto più importante, secondo me, che ha molto a che fare con quello che oggi diamo per scontato nella ricerca spaziale, astronomica, è che in questo momento abbiamo, a NASA, ESA, di questo si vantano e spisellano alla grande, fanno benissimo. Abbiamo flotte di telescopi a qualunque frequenza del visibile e invisibile in giro per il mondo, attorno al nostro pianeta, ma questo fino a 60 anni fa, ecco, più o meno, il periodo è sempre quello che stiamo identificando, questa cosa non era assolutamente scontata. E ricordo l'episodio meraviglioso, secondo me, che è descritto e raccontato benissimo nel libro di Giacconi, che racconta l'inizio della storia dell'astronomia a raggi X, di come hanno dovuto fare per sedurre la NASA e convincerla a investire dei soldi su spariamo in orbita. Prima di tutto un contatore proporzionale, uno strumento, non un telescopio ovviamente. Si sono dovuti inventare, no, ma stiamo guardando i raggi X del Sole rimbalzati dalla Luna, non ti devi preoccupare, non ci aspettiamo certo dei raggi X dallo spazio. Perché all'epoca le stime erano: vabbè, il Sole emette tot luce visibile, ne emette tot nei raggi X, se tutte le stelle sono come il Sole, non ci aspettiamo di vedere segnali significativi da altre stelle, quindi aveva un suo senso. Però, diciamo, Giacconi, Rossi e molti altri erano convinti che ne valesse la pena e hanno fatto benissimo. Però a me fa sempre molto ridere questa cosa che gli hanno dovuto puntare il dito alla Luna dicendo: no, ma guarda, noi siamo interessatissimi proprio a vedere come rimbalzano bene i raggi X del Sole sulla Luna, guarda. E poi Questa difficoltà nel fare le cose. Adesso, per esempio, mi viene in mente che adesso si lamentano, no, gli scienziati: no, perché abbiamo i tempi stretti, dobbiamo fare tutto in fretta, non era così un tempo. Sto cazzo, perché in realtà lo stesso Poro Giacconi ci racconta, sempre nel suo libro molto autobiografico, ovviamente non con questa verve, lui è molto più signorile, però racconta, per esempio, un altro episodio bellissimo è la fase di calibrazione degli specchi, perché gli specchi per catturare i raggi X sono fatti in un modo molto particolare, era ovviamente la prima volta nella storia dell'umanità che si costruiva qualcosa del genere, e quindi Giacconi e collaboratori dicono: va bene, a noi servono circa 6 mesi di tempo per fare questi test. E la NASA dice: ok, friends, va bene, facciamo. Poi gli dice, a un certo punto, un giorno, se uno si gratta la pancia, dice: ma sai cosa c'è? Questi 6 mesi diventano 2. E come voi potete vagamente intuire, questa cosa diventa un piccolo problema, perché dopo, a distanza di 30 anni di studi, avere la compressione da 6 a 2 mesi e il rischio quindi poi di un malfunzionamento degli specchi, perché l'unica cosa che ti serve in mandare in orbita che funzioni non è proprio una grande cosa. E quindi, appunto, sempre in questo libro meraviglioso, Giacconi racconta di come hanno dovuto fare delle schedule per cui la gente lavorava senza soluzione di continuità, con turni da 18 ore e tot ore di riposo. Era una roba che forse Adrian ci si avvicina oggi, cioè sta cercando di avvicinarsi a dei ritmi di questo tipo. Però ecco, questo è per dire a tutti i miei valorosissimi colleghi che fanno ricerca oggi, che si lamentano del tempi ristretti a cui viene sottoposta la loro ricerca, che diciamo la storia è piena di questi episodi. Nulla di nuovo sotto il sole. Che poi, ma forse mi correggerai tu o Adrian, visto che è una cosa di storia dell'astronomia e la sapete meglio di me, ma i satelliti che leggono a raggi X, poi per la questione della corsa invece alle armi atomiche rivolti verso la Terra sarebbero anche stati comodi, per cui perché la NASA, cioè non capisco perché la NASA non era persuasa all'idea di spedirli. C'era stato il progetto Vela, ma più che raggi X cercavano i raggi gamma, per okay. Cui in quel caso stavano cercando, avevano lanciato questi satelliti Vela che dovevano monitorare eventuali aumenti di raggi gamma che erano dovuti a esplosioni nucleari nello spazio. E dovevano monitorare più o meno quelle che fanno tutti i paesi, anche perché se erano da poco accorti facendo esplodere una bomba nucleare nello spazio, che non è una buona idea, perché tipo, hanno distrutto 7 satelliti propri, quindi vabbè, come sputare contro vento. Però il concetto di base era monitorare in generale quello che non può essere causato da altre cose, che non può un paese dire no vabbè ma cercavamo di fare altro, è solo quello, quindi era qualcosa di molto singolare. Ora, in quel caso il progetto Vela poi per puro culo riuscì a identificare esplosioni di raggi gamma che sono talmente intense, talmente forti, che le vedevamo tipo come una torcia accesa negli occhi qui, anche se erano venute a miliardi di anni di luce di distanza. E questa cosa fu abbastanza sconvolgente. Poi Elisa ti potrà raccontare sicuramente meglio, anche perché tipo si accendevano, erano fortissime, e quindi le prime ipotesi erano sarà un evento tipo gigantesco, catastrofico, e poi sparivano. E quindi era ancora più strano perché duravano incredibilmente poco, per cui sono rimaste, per esempio, sono rimaste impossibili da dimostrare anche le più probabili ipotesi fino a recentemente, perché sono state dimostrate grazie a onde gravitazionali. Quindi è ancora un work in progress, per cui se state sentendo questa cosa nel futuro lontano sicuramente sapete più di noi. Però quando lo scorso anno gli osservatori LIGO e Virgo hanno trovato un segnale della collisione tra due stelle a neutroni, hanno visto altri telescopi hanno poi visto anche raggi gamma tipici di quell'evento lì, quindi si pensa che quello che aveva visto i satelliti Vela era responsabile di quell'evento. Tra l'altro, per riguardo a quello che diceva Elisa, sono convinto che un giorno in futuro verrà scritta tutta questa storia come il periodo della nascita dei telescopi spaziali, e sarà un momento come poco dopo, come l'avvento dei cannocchiali e del telescopio per quanto riguarda Galileo. Quando è arrivato Newton, che nessuno ricorda per le innovazioni riguardo a lenti e telescopi, ma che ebbe un impatto enorme. Fraunhofer nell'800 che riuscì a creare lenti correggendo tipo le illusioni ottiche di come rimbalzava la luce dentro le lenti, e questa cosa ebbe un impatto gigantesco per cui improvvisamente si potevano vedere macchie singole tipo sulla superficie di Marte e potevi mappare le cose come cambiavano. Quindi nell'800 l'astronomia per quanto riguarda i pianeti cambia completamente per questo, grazie a queste innovazioni. E quindi credo che lontano diranno, poi nel 900 ci fu l'età in cui ci fu questo grande exploit, mentre per noi, nel senso, cerchiamo alla meglio, insomma, come raccontava giustamente Elisa di Giacconi. Ma come immagino nel tuo caso, Ale, sia stato per il viaggio del Beagle? Cioè, immagino che Darwin, quando è partito dal Beagle, non c'era tipo una folla di giornalisti. Allora proverai la tua teoria. Cambieremo per sempre, sempre la storia della biologia. No, anche perché, vabbè, in realtà Darwin c'aveva già delle vaghe idee evoluzioniste, perché comunque il trasformismo era nell'aria. Sì, sì. Come Wallace, no? Come Wallace, come suo nonno Erasmo, che anche lui... Buffon in Francia decenni prima, cioè c'erano un po' di queste idee trasformiste nell'aria, ma dubito che fosse neanche un figmento nell'immaginazione di Darwin tornare con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Per cui sì, come tu, cioè la storia, c'è quella frase famosa che dice la storia è la versione degli eventi su cui alla fine concordano tutti, o qualcosa del genere. È una delle citazioni che salta fuori in Civilization, per quella la so, non è che sono una persona erudita. Per rispondere invece, no, Ale, alla tua domanda, mi viene da pensare che la risposta è abbastanza semplice, nel senso che per monitorare degli eventi randomici di cui tu non sai prima dove avverrà, no, devi avere un campo molto grande di vista, no? Sì. Mentre quello che succede per i raggi X, e comunque raggi gamma, raggi X, è che tu devi hai tipicamente dei campi di vista molto piccoli. Cioè adesso siamo in grado di costruire dei campi di vista un po' più grandi, però inizialmente il massimo che si riusciva a fare erano questi specchi concentrici, cioè, e questo è lo stato dell'arte comunque della focalizzazione dei raggi X, e quindi un telescopio con un campo di vista ridotto è chiaro che è utile a scopi astronomici, cioè per essere puntato verso una regione e non per essere utilizzato come una survey di quello che succede in quella banda diciamo su grande scala, esatto. Cioè l'obiettivo di Giacconi era chiaramente molto lontano da un utilizzo militare, ecco, non c'era una giustizia, se no l'avrebbe sicuramente utilizzata. No, adesso che dici dei rilevatori e dell'utilizzo militare, stavamo parlando di bombe atomiche, mi è venuto un collegamento, non so se voi avete presente il progetto Plowshare, trasformare le spade negli aratri, che era, ce n'era anche uno equivalente nell'Unione Sovietica, ma negli anni 60 un gruppo di americani si era messa in testa l'idea di trovare scopi civili per le bombe atomiche, per dimostrare che si potevano usare anche per il bene dopo aver nuclearizzato Hiroshima e Nagasaki. E quindi ci fu questo test, ne fecero più di uno di test, ma ci fu questo test famoso, mi sembra in Nevada agli inizi degli anni 60, in cui praticamente nuclearizzarono un deserto del sale per scaldarlo e cercare di ricavare energia termica per fare le centrali non atomiche, a bomba atomica. Problemino, avevano invitato tutti i dignitari delle varie Nazioni Unite per far vedere, guardate, noi adesso pieghiamo la bomba atomica per farne un uso civile. Problemino, avevano piantato in giro dei contatori Geiger per sapere quanta radioattività rimaneva nel deposito. E il problemino era che nel mentre, tra il giorno in cui le avevano installate e il giorno in cui ci fu effettivamente l'esplosione atomica, delle marmotte avevano rosicchiato i cavi. Per cui loro si ritrovarono a fare una esplosione nucleare e non sapevano neanche quanta radioattività era rimasta lì in giro. Una di quelle cose per cui ad un certo punto hanno fatto la prima detonazione, il test doveva andare avanti, poi hanno detto ma forse è meglio se ci fermiamo qui. E non solo, ad un certo punto fecero una cosa simile, non contenti di questo risultato strepitoso, fecero una cosa simile qualche anno dopo per usare una bomba atomica per la trivellazione del gas nucleare. Una testata un po' più piccola, tu la infili nel buco, fai esplodere, invece di fare il fracking idraulico, che noi adesso ci facciamo problemi per il fracking idraulico, giustamente, ma usiamo una bombetta atomica, cosa vuoi che succeda? Quello che succede è che l'intero volume di gas diventa radioattivo e non lo puoi usare. Però loro ci credevano veramente, per cui hanno provato anche a fare quello. I sovietici non erano da meno, perché c'è un programma sovietico che si chiamava qualcosa tipo esplosioni nucleari per l'economia nazionale, cioè, e loro avevano proprio l'idea di fare terraforming con le bombe atomiche, no? Cioè prendere delle aree incoltivabili, nuclearizzarle e poi riformando come scorrevano i fiumi e cose del genere diventavano arabili. Cosa mai può andare storto del resto? Cosa mai può andare storto? Vedi, questi sono programmi elettorali, altro che... altro che bonifica delle paludi. Quelli sovietici sono più nascosti, per cui non li sappiamo, non si conoscono altrettanto bene. Ma anche lì, perché adesso è andata così, ma immaginati un universo alternativo in cui qualcuno fa la storia magnifica e progressiva di come inizialmente usavamo le bombe atomiche per cose barbare e invece adesso sono al servizio dell'umanità. Mamma mia. Tra l'altro, quando hai menzionato le marmotte mi ha fatto schiantare, perché io stavo per menzionare dei draghi, perché ho sempre pensato che se ci fosse in un universo fantasy, se ci fossero dei draghi, un'idea sarebbe quella di avere un programma spaziale per monitorare la loro presenza in base a riscaldamento parziale quando rilasciano fuoco, tipo se tu hai una bestia gigantesca su luoghi molto freddi come stanno di solito i draghi, magari che sputa fuoco, lo puoi notare, puoi cercare diversi isotopi, per esempio, in base a... o cose che producono le fiamme, magari composti diversi a base di zolfo, eccetera. E quindi, niente, sarebbe un'intera rete satellitare intorno alla Terra per il monitoraggio dei draghi. Invece di cercare il metano nell'atmosfera marziana, cerchi le combustioni di draghi. Sì, come il metano, esatto. Tra l'altro, ecco, visto che Lisa menzionava le varie lunghezze d'onda, c'è una sonda meravigliosa intorno a Marte che si chiama MAVEN, che sta studiando Marte, solo che non sta mandando indietro delle foto bellissime, catchy, esatte, nelle lunghezze d'onda che vedono i nostri occhi, ma più spostato verso i ultravioletti, e quindi normalmente il pubblico neanche sa della sua esistenza. Invece sta studiando il modo in cui il vento solare sta strappando gli atomi dall'atmosfera marziana, e come l'atmosfera marziana è tipo... è come il sedere di un bambino quando lo muovi molto velocemente. sì, tutto onde intorno. È uguale anche in questo caso, solo con una chiappa un po' più grossa dell'altra, perché a quanto pare... in una delle parti di Marte c'è una regione strana per cui il vento solare sembra interagire in maniera molto diversa rispetto al resto del pianeta. E poi c'è stato un momento in cui abbiamo visto le aurore su Marte grazie a questa sonda, però non come qui che hai l'aurora ai poli, perché non c'è un campo magnetico che possa lanciare poi dopo le particelle solo verso i poli, però l'intero pianeta ha iniziato a brillare come una lampadina, perché una gigantesca tempesta ha colpito a forza come schiaffi, e quindi praticamente il sedere del bambino è diventato tutto rosso brillante. Sculacciare Marte, il sole che sculaccia Marte, però no. Ok, non mi aspettavo di arrivare a queste conclusioni, ma la morale è che non tutto quello che succede di meraviglioso è visibile con i nostri occhi, a volte succede anche nel resto dello spettro, basta guardare. Visto che siamo partiti dall'astronomia da GX, è stupendo come siamo arrivati ai culi dei bambini. che tra l'altro però rilasciano anche infrarossi, quindi ci sta. Anche metano. No, tra l'altro mi era venuto in mente per la parte iniziale di questo discorso, certamente non quella finale, nemmeno quella centrale, che pochi giorni fa ho scoperto l'esistenza di una missione attorno a Venere giapponese che si chiama Akatsuki, sì, che è meravigliosa, Alba. Prende delle immagini, tra le altre cose, all'infrarosso di Venere, dell'atmosfera di Venere, e, perché studiare all'infrarosso Venere ti aiuta, per esempio, a vedere in profondità l'atmosfera, cosa succede nelle nubi, e sappiamo che Venere è la Terra andata male, sostanzialmente, cioè quello che potrebbe succedere di veramente molto molto brutto alla Terra in prospettiva, per cui vedere che cosa succede, come assorbe, come emette radiazione infrarossa Venere, e le immagini che stanno rilasciando invece sono estremamente catch, estremamente belle, perché appunto una è uscita sull'Astronomy Picture of the Day della NASA qualche giorno fa, e grazie a questo io ne ho scoperto l'esistenza, perché appunto non la conoscevo, e questa cosa mi ha fatto pensare al fatto che molto spesso queste missioni giapponesi, cinesi, cioè che hanno dietro delle storie che non sono NASA, ESA per noi occidentali, sono meno famose, meno sotto l'occhio, e questo è un peccato perché c'è tanta scienza interessante e anche immagini meravigliose. Quando c'era la storia di Rosetta, è risaltata fuori Hayabusa, la sonda della JAXA che hanno spedito a prendere una cometa, però... Correzione dal futuro, era un asteroide, non una cometa. Se non era per Rosetta 10 anni dopo... Sì, poi si tende a parlare magari della JAXA quando succedono cose come i Tomi, poverini, che cioè sono cose che possono succedere. Un po', devo dire che sembra che abbiano un po' il malocchio. I Tomi è un telescopio che doveva lavorare, poverino, alle alte energie, e invece purtroppo ha fatto una bruttissima fine. Mi viene da ridere perché è una storia molto triste, però non c'è niente da ridere. Perché... Era anche il terzo tentativo che andava male, la terza volta lanciavano lo stesso tipo di telescopio, gli altri due erano falliti, e anche il terzo è fallito. Per quello fa ridere Poracci, perché ci hanno creduto veramente tanto, però secondo me c'hanno qualcosa che non va con l'astronomia delle alte energie, cioè dovrebbero appaltare a qualcun altro le loro idee, perché come evidentemente... Come i russi per Marte. Esatto, per cui... però c'è da dire che c'è da riconoscere ai Tomi che per le poche ore, credo, che ha funzionato, ha fatto scienza e ha dimostrato che sarebbe stato uno strumento utile, poverino, rest in peace. Giusto in tempo per farti rosicare ancora di più. Esatto, esattamente. Ah, tra l'altro, parlando di cose non conosciute, tipo una delle cose che non abbiamo, che ancora, cioè che continuiamo a scrivere, che ci stiamo vivendo, è la storia dei computer e dell'informatica, che nel Novecento è cambiata così velocemente che spesso è difficile capire cos'è successo, perché siamo andati incontro a intere ondate di innovazioni. Tipo uno dei miei episodi primordiali, iniziali, preferiti, per darvi un'idea di come all'epoca non avevano idea di cose che avrebbero portato questi tipi di macchine nel lontano futuro, è la storia di uno scienziato russo chiamato Lukyanov, credo Vladimir, ma comunque Lukyanov, con la KY, Luciano praticamente, che nel 1936 ricevette l'incarico da parte dell'Unione Sovietica di trovare un modo per creare del cemento un po' migliore. Perché lui non si occupava di fare il cemento, lui si occupava però di testarne la resistenza, perché doveva testare, capire tipo la permeabilità all'acqua, doveva capire la resistenza di vari tipi di cemento, cioè le aziende dei laboratori potevano mandargli un sacco di tipi di cemento e poi lui doveva trovare il modo per fare tutti questi test che comprendevano un casino di equazioni differenziali, cioè roba da incubo, e lui... ha fatto quello che chiunque di noi avrebbe fatto, e in quella situazione ha inventato un supercomputer, un sistema stranissimo, però, e questa è la cosa geniale, perché non era la prima volta che qualcuno faceva una macchina per fare calcoli, tipo, pensate a Pascal, no? Ma la cosa innovativa è che lui ha creato un intero computer ad acqua, acqua o vodka, dipende, ma acqua. Cosa? Sì, ha fatto, ti giuro, guarda, ci sono alcune foto dell'epoca, di questa stanza, piena di tubi di acqua, e in pratica lui aveva creato tutto un meccanismo con delle leve, per cui ogni bit era una quantità di acqua che si accumulava poi, quindi se tu giravi le leve nel modo giusto, alla fine ti portava il risultato delle equazioni in quantità di acqua presente in questi tubi. Madonna, ed è stata la prima macchina che abbiamo costruito come umani in grado di risolvere equazioni differenziali. O equazioni, che io sappia. Per cui questa macchina era in grado di risolvere equazioni. È pazzesco! No, lui non aveva idea che, tipo, cosa sarebbe successo con i computer o altro. Cioè, per lui stava costruendo una macchina per semplificarsi la vita, perché non c'aveva un cazzo di voglia di stare a risolvere così tante equazioni riguardo al cemento. E invece fa qualcosa di strabiliante. Ma è allucinante. Secondo Wikipedia, perché questa cosa la scopro adesso da... Io non mi aspettavo di parlare di questo, quindi premessa, lo dico a memoria di studi passati, per cui... Ho dovuto cercarlo. Il primo l'hanno costruito nell'Unione Sovietica, appunto Lukianov, nel 1936, ma l'hanno utilizzata fino agli anni 80. Wow! Ecco, cioè, questo non lo sapevo neanche io. Che mi manda male tantissimo. Il progresso è fantasia, ragazzi. Aveva già fatto tutto Archimede. Sono con la mascella slogata. Sì, tra l'altro mi ricordo che quando l'avevo saputo nel libro in cui l'avevo letto, che purtroppo non mi ricordo come si chiamava, veniva menzionato tutti gli aneddoti di come è arrivato alla conclusione di usare l'acqua e altre alternative che aveva valutato, e problemi di cui si lamentava, tipo le perdite e come stimare come a quanto bene poteva funzionare la macchina. Insomma, tutta una serie di aneddoti che, se vi piace la storia dell'informatica, vi consiglio caldamente di andare a leggere. Fantastico. Però di nuovo, come dicevamo, come il tema, no, di tutto questo, lui non lo faceva perché si aspettava di contribuire alla grande storia dell'informatica o altro. Quindi molte delle cose che magari succedono oggi, delle notizie che state leggendo, potrebbe essere così. Quindi potrebbe essere che voi pensate, oh vabbè, insomma, una notizia, pensa questa. Invece sarà pensato in futuro come il grande momento storico in cui è avvenuto per la prima volta questa cosa. Tipo come il grafene, no? Che ora viene citato come materiale miracoloso per raccogliere un po' di click. Riguardo, oh, le cose che si potrebbe in teoria fare con il grafene. Poi dopo, essendo così dannatamente difficile da produrre in scala, rimane in laboratorio principalmente, però mi piace pensare che magari in futuro sarà tipo uno dei materiali più rivoluzionari usati ovunque, e sarà come noi quando guardiamo l'800 e diciamo, oh mio Dio, non c'erano le plastiche. capito? Cioè... Grande Natta! Diciamo che per ribaltare il discorso e per chiuderlo anche, la vedrei all'opposto, nel senso che siccome di recente sono stata a un workshop in cui si parlava di citizen science, mi è venuto spontaneo pensare che forse nel futuro vedremo questa epoca come quella in cui è nata la scienza condivisa, nel senso che secondo me questa produzione di mole di dati che permettono, che da un lato richiedono proprio l'utilizzo di macchine e di spazio memoria, macchine sempre maggiore, e richiedono quindi anche il coinvolgimento di citizen scientist, può cambiare un po' le prospettive. Non lo so, mi piace pensarla così, che questo sia un momento di cambiamento in questo senso. Detto questo, oggi ho l'ingrato compito di fare un po' la summa, che come sempre è abbastanza complicato. Questi sono gli appunti che mi sono presa. Siamo partiti da cose che iniziano in un modo e finiscono in un altro, ce le viviamo nel presente in un modo e poi nel passato le capiamo in un altro modo, le leggiamo in un altro modo. Siamo passati da Explorer 1, anniversari del DNA, pulsar, telescopi a 100.000 lunghezze d'onda. Diciamo che, come sempre, il mio animo da Lina Wertmüller ha preso il sopravvento, e quindi io questa volta però propongo un titolo e un sottotitolo, così faccio felice Alessandro, mi odia un po' meno. Ok. Quindi il titolo sarà Le meraviglie della scienza a posteriori, e questo, ragazzi, scusate se è poco, è quasi sensato. E il sottotitolo sarà Il culo di Marte, bombe atomiche e marmotte. E con questo, ragazzi... Quindi la scienza a posteriori, non per caso. Hai capito il fine gioco di parole? Geniale, bravissima. Stringo detto la mano questo, ragazzi, state ascoltando la decima e attesissima puntata di Ragù di Scienza, il vostro podcast preferito di scienza e dintorni, e anche un po' follia in generale. I suoi protagonisti, come al solito, sono quel biocoso di Alessandro Tavecchio. Ciao ragazzi, grazie, trovate tutte le mie cose su prosopopea.com. Grazie mille Ale, e ovviamente il grandissimo Adrian Link to Universe Fartade, che potete trovare un po' ovunque. Esatto, cercate Link to Universe o Link for Universe e mi trovate ovunque, come sempre un abbraccio. Poi ovviamente Adrian ha anche 100 miliardi di progetti segreti, però in quanto segreti noi non ve li diciamo. Da Elisa, Nichelli è tutto, vi saluto, un grande abbraccio, alla prossima puntata. Ciao! Ciao!